24, i gialli della storia. Papà era un innamorato della vita. Una delle cose che chiedeva, che ci chiedeva spesso è se eravamo felici. E mio papà era una persona buona, buona d'animo, buona di sentimenti. La presenza di mio papà era quella che mi dava la fiducia, la sicurezza di affrontare i problemi. Quei giorni lì, la vita, la nostra vita ovviamente è cambiata e a volte non riuscivo neanche a capire che cosa stavo vivendo. Hanno fatto l'irreparabile. Al di là delle sofferenze che mio padre ha subito, anche al loro interno avevano capito che non era la persona che pensavano di avere di fronte. Forse anche per questo hanno scatenato tutto il loro odio, tutta la loro cattiveria. È il 20 maggio dell'81, il mondo intero è ancora sconvolto per l'attentato a Giovanni Paolo II accaduto solo 7 giorni prima. E mentre milioni di fedeli stanno con gli occhi puntati verso le finestre di quella camera al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato il pontefice, a centinaia di chilometri si sta per compiere un altro attentato. Sono le 13:30, una famiglia riunita intorno al tavolo della cucina e un dirigente d'azienda sta per essere rapito in casa. È Giuseppe Tagliercio, direttore del petrolchimico di Porto Marghera. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di una tragedia annunciata, una tragedia durata 46 giorni sullo sfondo degli anni di piombo. Il martirio di un uomo che lascia una lezione di vita è una testimonianza di fede. Ma ascoltiamo dalla voce dei figli e della moglie la cronaca di quei momenti che sconvolgeranno le loro vite. All'ora di pranzo. Coglieva l'occasione per tornare a casa e mangiare con noi. Lui si pigliava questa pausa di una mezz'oretta prima di rientrare in fabbrica. Eravamo tutti a tavola. C'ero io, mia sorella Bianca, mia mamma e mio papà. E hanno suonato alla porta e è andata mia mamma ad aprire. Apre la porta e dice: Pino, ci sono i finanzieri. Gli ha detto: guarda Pino, c'è la finanza che ti vuole. Ho visto entrare il finanziere, mi sono girato rivolto al papà e ho visto un'espressione di perplessità. Aveva capito tutto. Mio papà si è alzato ed è andato in salotto. Io mi sono un po' stupita del fatto che due persone sono venute in cucina dove eravamo noi, dove c'ero io e Cesare, e poi è venuta anche mia mamma. E queste due persone hanno tirato fuori le pistole e ci hanno subito detto chi erano. Io mi siedo, appena mi sono seduto, i due che mi ci hanno seguito si sono dichiarati, ha detto: state fermi, siamo delle Brigate Rosse, hanno tirato fuori delle pistole. La mia preoccupazione, vedendo le pistole puntate, visto che c'era mia mamma davanti alla pistola, è stata quella di mettermi davanti. È andato incontro una di queste e gli ha detto: non fate male a mio papà. E questo gli ha dato uno schiaffo. E poi ci hanno legato per terra, ci hanno messo lo scotch sulla bocca. L'ultima cosa che ho sentito, probabilmente devono avergli dato un colpo in testa per metterlo nel baule, è stato un rumore del tavolo di mia mamma. Quello, mi pare di aver sentito una piccola colluttazione, ma penso solo perché l'avevano stordito e lo dovevano mettere dentro questo baule, che poi si è saputo dopo che era un baule, dove poi l'hanno rinchiuso e l'hanno portato via. Pochi minuti dopo, verso le 14:45, l'allarme è stato dato anche dall'autista della Montedison, che doveva accompagnare Tagliercio al petrolchimico. Giuseppe Tagliercio è direttore da un anno e mezzo del petrolchimico, uno stabilimento con 6.000 dipendenti. Fino a questo momento nessun risultato dalle ricerche del direttore della Montedison di Venezia, rapito nel primo pomeriggio da un comando di 5 uomini che si sono dichiarati brigatisti rossi. Se la famiglia è sotto shock per gli inquirenti, è come vivere in un film già visto tante volte. L'ostaggio e i rapitori sembrano spariti nel nulla. Ascoltiamo la testimonianza di Roberto Emirani, ex ispettore della Digos, poi Giorgio Malagoli, controller della Montedico, e il giornalista Adriano Favaro, che spiegano il clima all'interno della fabbrica in quel periodo. Tutti impazziti, la si correva da una parte all'altra, si cercava di far posti di blocco e tutto, chiedere porta a porta tutto quello che qualcuno aveva potuto vedere, notare nei giorni precedenti. Era un clima terribile. sentivamo un po' impotenti davanti a questi fenomeni. Non... Cioè, la voglia c'era, però si lavorava nel buio, si era probabilmente anche impreparati a questo, io credo. Quando lui mi ha telefonato, sarà stato non più di 5-6 giorni prima del rapimento, pochissimo tempo prima. Taliercio mi disse: Giorgio, guarda, la mia situazione qui è critica. Ti prego di trovarmi rapidamente una sostituzione, di richiamarmi. Questo è stato un discorso, proprio una telefonata appassionata di Taliercio, non è una cosa burocratica. Era il direttore del petrochimico, ma aveva dato le dimissioni. Lui gli chiesero, aveva già dato, non era il direttore, era solamente un reggente in quel momento. Gli chiesero di restare al petrochimico per alcuni giorni, era già pronto il suo sostituto. E quando lo rapirono, il sostituto non arrivò, ma rapirono un uomo che non aveva più quelle funzioni. Quando lui nell'81 viene rapito, Porto Marghera è la più grande concentrazione industriale europea. 7.400 dipendenti diretti, dai 3.500 ai 4.000 indiretti. Un quarto dell'area industriale di Porto Marghera è nelle mani del petrolchimico, quindi il petrolchimico è la potenza assoluta. Per capirci, 40-60% del materiale per cui è costruita un'auto in Italia viene dal petrolchimico. Quindi Giuseppe Taliercio si sente in pericolo, ma nonostante questo per mesi rimane al suo posto, al comando del più importante polo della chimica in Italia. Nonostante il suo ruolo, Taliercio è amato dagli operai, partecipa attivamente all'associazione di San Vincenzo aiutando e facendo visita ai dipendenti in difficoltà. Poi però a un certo punto chiede il trasferimento. Ha capito che il clima sta cambiando. Ascoltiamo Italo Sbrogiò, ex delegato di Potere Operaio. Gravissima tragedia sul lavoro ieri poco prima di mezzogiorno all'interno dello stabilimento petrolchimico della Montedison a Porto Marghera, a pochi chilometri in linea d'aria da Venezia. Nel laboratorio di analisi dei fluoroderivati c'è stata l'improvvisa rottura di un contenitore di acido fluoridrico. L'acido evaporato formando una micidiale miscela tossico-corrosiva che ha investito i tecnici addetti alle operazioni. Tre analisti sono morti poco dopo il trasporto all'ospedale di Mestre. Un direttore viene mandato via, un altro direttore viene mandato via, perché praticamente? Perché erano arrivati, cioè arrivavano saturi di denunce, di processi, e quindi li dovevano togliere. Taliercio viene nominato in un momento in cui gli incidenti praticamente mortali vengono meno, insomma, no? Però praticamente si presenta questa nocività invisibile dell'inquinamento. Quando sono sorte le Brigate Rosse, che facevano i primi sequestri proletari, che facevano questi processi e così via, io devo anche dire che da parte degli operai non è che avessero preso le distanze, insomma, no? Perché dicevano: oh, finalmente hanno colpito questi lazzaroni, no? Poi dopo hanno cominciato a fare gambizzare, e allora lì il consenso degli operai cominciava a essere così, no? Poi dopo non ti dico quando hanno cominciato a uccidere, insomma. Intanto le BR non avanzano richieste per la liberazione dell'ingegnere e questo preoccupa sia gli inquirenti che la famiglia, che leggono con ansia i primi comunicati. A Mestre e a Padova sono all'esame di Digos e Carabinieri due volantini fatti trovare ieri sera dalle Brigate Rosse a due giorni dal rapimento dell'ingegnere Giuseppe Taliercio, direttore del petrolchimico di Porto Marghera. Il 20 maggio 1981 un nucleo armato della nostra organizzazione ha catturato il servo delle multinazionali imperialiste Giuseppe Taliercio, direttore generale dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera. Il lurido porco si trova ora rinchiuso in una prigione del popolo. È interrotta la sua quasi trentennale attività sulla pelle degli operai Montedison, dovrà rendere conto del suo operato alla giustizia proletaria. Di una spietata crudeltà il punto scelto per collocare a Mestre il secondo volantino. A poche decine di metri, il 29 gennaio del 1980, le Brigate Rosse avevano assassinato all'uscita di casa il vice direttore del petrolchimico Sergio Gori. come lo ha conosciuto il papà, lo ha subito stimato per la professionalità e anche per l'umanità. Ecco, quindi ho sentito proprio che il papà lo sentiva un amico, ecco, questa persona. E io ricordo che da quel momento in poi quella che era la normalità della famiglia, la serenità della famiglia non è più stata la stessa. È stato tutto l'80, dopo è accaduto, c'è stato l'omicidio di Albanese. Non dimenticherò mai quella risata sarcastica, spietata. Sono parole di un testimone dell'assassinio di Alfredo Albanese. Io all'epoca ero un giovane brigadiere e dipendevo da Alfredo Albanese, che era il capo del commissario. A ridere così beffardamente sarebbe stata la donna del comando nel momento in cui infliggeva il colpo di grazia al giovane funzionario della Digos di Venezia. Alfredo Albanese, vicequestore a Venezia, viene ucciso il 12 maggio dell'80, proprio a causa delle sue indagini sulle BR. Eppure, nonostante questo omicidio e quello di Sergio Gori, Tagliercio rimane alla guida del petrolchimico e lo rappresenta pubblicamente sui giornali e in televisione. E così per le BR Tagliercio diventa un bersaglio fin troppo facile. Ascoltiamo Gianni Francescutti, membro delle BR. A un certo punto tu incontri un obiettivo relativamente facile e che conosci perché c'è sull'elenco telefonico del direttore e che non ha particolari difese dal punto di vista di scorte e cose di questo genere. Io penso che la scelta sia stata fatta in questo modo empirico, in questo modo anche ignorante in un certo senso, no? Il direttore. Noi saliamo e qualcuno ferma la famiglia, insomma. Io avevo l'incarico, assieme a qualcun altro, di portare giù l'ingegnere, che poi è stato messo in una cassa di imballaggio, mi pare. E quindi è apparsa come un trasporto. Quindi il trasporto di questa cassa, mi pare di essermi vestito da facchino, qualcosa del genere, insomma. E poi no, normalmente, con un vestito normale, abbiamo attraversato un pezzo d'Italia del Nord. In questa casa c'era, mi pare, una soffitta o qualcosa di quel genere, in cui era stata montata una tenda, in cui c'era l'ingegnere e qualcuno di noi, insomma. Il paese dove l'ingegnere è rinchiuso è Tarcento, un piccolo paese del Friuli, dove in una soffitta è stata montata una tenda da campeggio. E in quella tenda, su quella brandina, Tagliercio vivrà 46 giorni della sua prigionia, con una sola arma a sua disposizione, la fede. E con questo spirito l'ingegnere scrive a Luigi Di Stasi, presidente del sindacato dirigente. Una notte ho ricevuto una telefonata. Qui, Brigate Rosse. Abbiamo portato una lettera dell'ingegnere Tagliercio. È sotto il portone d'ingresso. Sono corso a prenderla ed era l'ingegnere Tagliercio che l'ha mandata a me in qualità di presidente della situazione dirigente dell'azienda industriale di Venezia. Caro ingegnere, nella difficile e tragica situazione in cui mi trovo, mi rivolgo a lei quale presidente. Non si poteva altro che essergli, oltre che stimarlo per quello che faceva e per la sua grande professionalità, cresce gli amici e vorrei bene. Mi si dice, non leggo i giornali, che la reazione del sindacato dirigenti al mio sequestro da parte delle BR è stata blanda e di pura facciata, e presto si è spenta in un vero e proprio blackout. Ritengo che una presa di posizione del sindacato chiara ed energica possa porre il sindacato in posizione di forza rispetto alle classi imprenditoriali e politiche. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto imponendo o comprando degli spazi sulla stampa, sia a livello regionale che nazionale, per dare voce alla lotta operaia e alle BR. Certo del suo aiuto, la saluto molto cordialmente. Giuseppe Tagliercio. E io ho telefonato, mi sono dato subito da fare, primo il Gazzettino, risposta negativa. Poi il Corriere della Sera, risposta negativa. Poi la stampa, risposta negativa. Perché c'era una disposizione chiara, c'era un silenzio stampa su queste cose, proprio per non dare indirettamente un riconoscimento alle Brigate Rosse. Un blackout totale, cancella dai giornali e televisione l'intero rapimento Taglierci. E per qualcuno questo silenzio è una responsabilità diretta della Montedison. Ma l'accusa viene respinta con fermezza da chi lavorava a stretto contatto con Mario Schimberni, che era il presidente della Montedison. La posizione della società era di favorire in qualsiasi modo la liberazione di questo. Questa è una cosa proprio che mi preoccupai e che come dirigenti, allora associazione dei dirigenti Montedison, venne garantito dal vertice della società. Da parte di Schimberni venne dato carta bianca per quanto riguardasse l'eventuale necessità di versare cifre per salvare Taliercio. Intanto le BR sentono che la loro azione non sta portando i risultati sperati. Ancora Gianni Francescutti. Noi avevamo la sensazione che fosse tutto assolutamente insufficiente, che nessuno volesse trattare, che non ricevessimo niente in cambio, però indubbiamente noi non avevamo fatto delle richieste vere, esplicite, come organizzazione. Noi abbiamo fatto questa cosa era perché pensavamo che potesse creare forza nell'organizzazione operaia che lottava contro la nocività per avere un po' più di soldi, per star meglio in fabbrica, queste cose qua. L'esecutivo, insomma, chi gestiva da Roma questo sequestro, si aspettava che fosse la controparte a fare delle offerte. L'idea di aver rapito un responsabile di un delitto sociale così terribile come le morti sul lavoro, inquinamento, un diritto di vita e di morte, per cui per evitare questo fosse la controparte che doveva offrire qualcosa, insomma. È il momento del cosiddetto processo proletario, ma anche questo non porta a nessuna nuova informazione sensibile. Quali sono i tuoi compiti da direttore? Dirigere la fabbrica. Cioè tu sei responsabile o no di tutto quello che succede in fabbrica? Naturalmente ognuno per la sua parte. Tu di tutto? Beh, direttamente o indirettamente direi di sì. Parla della produzione bellica della Montedison. Non ne so niente, per me è una novità. Noi produciamo acido tereftalico, caprolattame, cloruro di polivinile, clorosoda. Questi tutti prodotti che non hanno impieghi bellici. Parlami della programmazione degli incidenti. Ma c'è tutto un lavorio per evitare che gli incidenti accadano, si fa molta prevenzione. La scelta dei tecnici è fatta in base a schieramenti politici? No, assolutamente. Sei iscritto a qualche partito? No. Sei apolitico? Non sono iscritto a nessun partito. Sei al servizio delle multinazionali? Sono al servizio di multinazionali. Noi siamo sicuri che in fabbrica ci sono le schedature? No, assolutamente. Può dire quello che vuole. A me risulta che non ci siano proprio. Bisogna vedere quello che intende per schedature. Se intende luogo e data di uscita, allora la scheda c'è. Quelle politiche? No, quelle politiche no, assolutamente no. Anche all'interno delle BR cominciano a nascere dei dissensi. Dopo un mese dal sequestro, Gianni Francescutti esce di scena e viene sostituito dal leader della colonna veneta delle Brigate Rosse, Antonio Savasta. Sarà lui, da quel momento, a gestire gli interrogatori e i contatti con l'ostaggio. Le BR cercano di tirare le fila di un'azione che però appare sempre più illogica e senza prospettive. Anche la risposta della fabbrica va nella direzione contraria a quella che si aspettavano. Ancora Italo Sbrogiò, il giornalista Adriano Favaro e la figlia di Taglierci, Bianca. Cominciamo a sentire i primi verbali del processo che li stavano facendo. Non ti dico la paura all'interno della fabbrica. E la cosa che mi ha più impressionato è che non c'erano risposte degli operai. C'era un silenzio. Forse questo è un segnale che, letto adesso, ha un grande significato. Non c'era l'attecchimento che i brigatisti chiedevano, volevano e avevano cercato di ottenere con più e tante azioni. Mi telefona la figlia, dice: lei ci deve dare questo grande aiuto, perché gli sembrava impossibile che io non avessi rapporti. Lei mi deve dare un aiuto perché mio papà ormai sta andando verso la fine. E niente, io ho detto: guarda, che quello che noi possiamo fare lo stiamo facendo, ma se lei pensa che io abbia altre possibilità, si sta sbagliando di grosso. E io ricordo dell'ultimo comunicato che ero terrorizzata proprio di quello che stavano dicendo, di quello che stavano facendo, di quello che volevano fare. Ma è tutto inutile. Le BR hanno deciso. L'ostaggio deve morire. È l'alba del 6 luglio dell'81, l'alba del 47esimo giorno del Calvario di Giuseppe Tagliercio. Arriva un comunicato che c'è l'automobile e nel bagagliaio c'è l'ingegnere Tagliercio ucciso. Mi pareva in qualche modo di essere un po' responsabile, no? Un po' di non essere riuscito a rispondere a un suo appello, una sua chiamata estrema. Io ricordo il suono del telefono. Ed è andata a rispondere Elda. E io mi ricordo che mi è preso un baticuore tremendo. Ed era l'avvocato che ci diceva. Non mi ricordo nemmeno le parole giuste. Hanno trovato il papà, una cosa del genere. Ed è corsa da noi e dicendoci: non è andata bene. Mia mamma voleva andarlo a vedere, mi pare che poi abbiamo detto di ricordarlo com'era. Cesare Di Lenardo, dirigente della colonna veneta delle Brigate Rosse, tra gli organizzatori del sequestro Tagliercio, decide di non collaborare con la giustizia. Per l'omicidio dell'ingegnere Tagliercio viene condannato alla pena dell'ergastolo. Antonio Savasta, membro del comitato esecutivo delle Brigate Rosse, il killer dell'ingegnere Giuseppe Tagliercio, decide di collaborare con la giustizia. Viene condannato a 10 anni di reclusione. Gianni Francescutti, dirigente della colonna veneta delle Brigate Rosse, tra gli esecutori materiali del rapimento e incaricato della custodia dell'ostaggio nel covo di Tarcento, viene condannato a 13 anni di reclusione. Per l'omicidio dell'ingegnere Giuseppe Tagliercio vengono rinviate a giudizio complessivamente 19 persone. Il processo si conclude con la condanna all'ergastolo per 8 brigatisti e 130 anni complessivi per gli altri 9 imputati. Nel 2000, in occasione delle celebrazioni dell'anno santo, Papa Giovanni Paolo II fa personalmente inserire il nome di Giuseppe Tagliercio nell'elenco dei 12.000 testimoni della fede. Per la Chiesa Cattolica è ora, a tutti gli effetti, un martire. Hanno collaborato ai gialli della storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.